Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Salve, benvenute e benvenuti alla nuova puntata di Restiamo Animali, la trasmissione animalista, antispecista e vegan che sceglie notizie di attualità mettendo al centro dell'attenzione la condizione degli animali non umani, nella persuasione che un mondo più equo e più capace di futuro sarà possibile se riusciremo a superare l'antropocentrismo e le forme di dominio che hanno caratterizzato finora la vita sul pianeta Terra. È la puntata numero 646 e parleremo di cambiamenti climatici, della guerra in Ucraina dal punto di vista degli animali, della bellezza del mondo come fatto giuridico, di tartarughe e di Nazioni Unite. Non mancherà come al solito una ricetta del nostro tosco vegan chef Gabriele Palloni, mentre la colonna sonora è curata stavolta dal nostro Gianluca Masala. Abbiamo parlato più volte nelle precedenti puntate delle conseguenze della guerra in Ucraina sugli animali. Animali liberi, per esempio i delfini, colpiti nel Mar Nero dalle attività delle navi delle varie marine e militari, ma anche gli animali domestici, portati in salvo con sé da decine, centinaia di migliaia di famiglie espatriate dal paese in guerra e quelli ricoverati nei rifugi. Fra questi c'è il rifugio gestito non lontano da Kiev da un attivista italiano, Andrea Cisternino, a lungo rimasto pressoché isolato in una zona di combattimenti e poi raggiunto da una carovana di aiuti inviata proprio dall'Italia. Ebbene, Andrea Cisternino nei giorni scorsi è venuto in Italia e ha avuto modo di raccontare la sua esperienza. Lo ha fatto in particolare a San Patrignano, nella sede della nota comunità romagnola di cura e recupero. Siamo stati fortunati che i russi non siano mai entrati nel rifugio, ha detto Cisternino, ma non avrei mai abbandonato gli animali e chi era con me a loro protezione, ha detto ancora, parlando dei 400 animali ospiti della struttura e dei collaboratori che contribuiscono a mantenerla. La paura e i momenti di sconforto ci sono stati, ma ci siamo fatti forza a vicenda, razionando sempre più le scorte di cibo che per fortuna avevamo accumulato prima dello scoppio della guerra, alla quale in verità non credevamo, così Cisternino. A proposito dei delfini, invece, Francesco Cortonesi, sul sito veganzetta.it, è tornato ad affrontare l'argomento, riportando in particolare le parole di Ivan Rusev, capo dei ricercatori del Parco Nazionale che si trova nella regione di Odessa. Dall'inizio della guerra, ha scritto Rusev in un post su Facebook, nel Mar Nero sono stati trovati centinaia di delfini morti. E alcuni volontari hanno descritto in altri post la situazione trovata sul campo. Diversi delfini non erano in grado di nuotare ed erano molto deboli. Alcuni avevano ustioni dovute a esplosioni di bombe o mine. Secondo gli esperti che li hanno esaminati, non sono stati in grado di mangiare per almeno 10 giorni. Coloro che non sono rimasti ustionati sono stati gravemente feriti. Non c'è modo di aiutarli in queste condizioni. Le immagini purtroppo non lasciano adito a dubbi, commenta Cortonesi nel suo intervento. Delfini feriti e morti sono stati rinvenuti sulle coste di Bulgaria, Romania, Turchia e Ucraina. Making wooden posts What if birds are singing and screaming? What if my moon gets caught up in her wedding, trapped under a sky left blacker than the eyes of my visitors? What if birds aren't singing, they're screaming? What if birds aren't singing, they're screaming? But it was just a ghost, even under his cloak. What if birds aren't singing, they're screaming? What if birds aren't singing, they're screaming? Si è svolto nei giorni scorsi il congresso nazionale della LAV, Lega Antivivisezione, la più grande organizzazione animalista del nostro paese. Sono stati rinnovati anche gli organi dirigenti, con la conferma come presidente di Gianluca Felicetti. Durante il congresso, fra gli altri, è intervenuto il nostro storico collaboratore Luigi Lombardi Vallauri, già professore di filosofia del diritto all'Università di Firenze e alla Cattolica di Milano, che ha parlato del rinnovamento dell'articolo 9 della Costituzione, con l'introduzione della tutela degli animali. Citiamo un brano della sua relazione. «Credo di poter definire il 9, ha detto il professor Lombardi Vallauri, l'articolo della bellezza del mondo. La cultura, la ricerca scientifica, il patrimonio storico e artistico, il paesaggio, l'ambiente, la biodiversità, gli ecosistemi formano insieme un armonioso ottagono, che nella mia terminologia chiamerei pleromatico. Il pleroma, la pienezza dell'essere, è il concetto base della mia filosofia pratica, morale, giuridica, politica, economica. L'attuale articolo 9, come articolo della bellezza del mondo, costituisce un modello normativo pleromatico, da coordinare organicamente all'articolo 3, secondo comma, che, anch'esso pleromatico, riconosce come principio supremo normativo il pieno sviluppo della persona umana. E gli animali? Finora non li ho menzionati perché volevo far risultare la quasi sublime importanza del loro inserimento in Costituzione. Vengono a completare ufficialmente la bellezza del mondo e in uno dei 12 principi fondamentali, rimasti immutati da quando è in vigore la nostra Costituzione. C'è di che smentire ogni benaltrismo». Così Luigi Lombardi Vallauri al congresso della LAV. Dance me to your beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Lift me like an branch and be my homeward dove. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Let me see your beauty when the witnesses are gone. Let me feel you moving like they're doing belong. Show me slowly what I only know the limits of. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. dance me to the wedding. Now dance me on and on. Dance me very tenderly and dance me very long. We're both of us beneath our love. We're both of us above. Dance me to the end of love. Brutte notizie, come al solito, arrivano dal fronte dei cambiamenti climatici. Parliamo stavolta delle Alpi e di un'indagine svolta grazie ad alcuni satelliti statunitensi che hanno fotografato l'area mettendo poi a confronto le nuove immagini con quelle scattate nei decenni scorsi, fino a risalire al 1984. I risultati della ricerca sono stati pubblicati in Svizzera sulla rivista Science. La conclusione dei ricercatori è che, come sta accadendo nell'Artico, anche le Alpi stanno diventando sempre più verdi, a discapito del bianco delle nevi, in continuo arretramento. La linea degli alberi si è spostata verso l'alto in circa il 77% della catena alpina e il timore è che in futuro possa spostarsi ulteriormente, accelerando lo scioglimento della neve. Ciò altererebbe l'albedo, ossia l'estensione delle aree che riflettono i raggi solari, e questo fenomeno potrebbe a sua volta provocare lo scioglimento del suolo ghiacciato, il permafrost, e distruggere gli habitat che attualmente ospitano animali e piante tipici della zona alpina, e con riflessi che potrebbero arrivare anche a colpire l'economia di quest'area. La portata del cambiamento si è rivelata assolutamente enorme nelle Alpi, ha detto Sabine Rumpf dell'Università di Basilea, che ha condotto la ricerca con Grégoire Marietos e Antoine Guizan, entrambi dell'Università di Lausanne. Le Alpi stanno diventando più verdi perché le piante stanno colonizzando nuove aree e la vegetazione generalmente diventa più fitta e più alta, un fenomeno dovuto soprattutto alle variazioni delle precipitazioni e a periodi di vegetazione più lunghi a causa dell'aumento delle temperature. La situazione è grave e potrebbe portare a una sorta di avvitamento, con fenomeni a catena. Le piante alpine sono adattate a condizioni difficili, ma non sono molto competitive, ha detto ancora Sabine Rumpf, e quindi, con il mutare delle condizioni ambientali, le attuali specie perdono il loro vantaggio. Di conseguenza, conclude Rumpf, la biodiversità unica delle Alpi è sottoposta a una notevole pressione. Le Alpi sono in pericolo, ma non stanno troppo meglio i mari. Secondo un altro studio appena pubblicato sulla rivista Science, nelle acque caratterizzate da temperature medie più elevate, i predatori tendono ad aumentare la loro attività di caccia e ciò potrebbe sconvolgere potenzialmente gli equilibri tra le varie specie che popolano gli oceani. Anche in questo caso, dunque, è prevedibile l'avvio di una spirale distruttiva. Le acque con temperature più alte, ha commentato Emmett Duffley, direttore dell'osservatorio marino dello Smithsonian Institute, tendono a favorire gli animali in cima alla catena alimentare, che diventano più attivi, perché hanno bisogno di maggiori quantitativi di cibo e si nutrono ovviamente a scapito delle loro prede. Il nostro lavoro, ha detto ancora Duffley, suggerisce che il riscaldamento delle acque dovuto a cambiamenti climatici di origine antropica potrebbe provocare notevoli alterazioni nella distribuzione della biodiversità nei fondali marini. Came come abbiamo visto, non ci sono notizie troppo incoraggianti sul clima e settimana dopo settimana siamo costretti a riferire di rapporti e studi che documentano l'alterazione degli habitat e condizioni di vita sempre più difficili per innumerevoli specie animali e vegetali. Tutto questo di fronte a debolissime azioni concrete da parte dei decisori politici per frenare o almeno rallentare processi tanto incalzanti. Abbiamo chiesto a Francesco Panier, giornalista ambientale e attivista, di dedicare una voce del suo lessico dell'antropocene ai 50 anni trascorsi dalla conferenza di Stoccolma, la prima dedicata all'ambiente dalle Nazioni Unite. Il 18 marzo 1967 la petroliera Torrey Canyon, partita dal Kuwait un mese prima, si incaglia al largo delle coste della Cornovaglia, causando il primo rilevante disastro ambientale dovuto allo sversamento in mare di grandi quantità di petrolio e alla successiva contaminazione costiera. Questo è il fatto scatenante che porta le Nazioni Unite a occuparsi seriamente della condizione dell'ambiente globale. La consapevolezza della fragilità degli ecosistemi cresce e tra il 5 e il 16 giugno del 1972, cioè esattamente 50 anni fa, su iniziativa dell'Assemblea Generale si tiene a Stoccolma la conferenza ONU sull'ambiente umano. Alla conferenza, nella capitale svedese, partecipano gran parte dei membri delle Nazioni Unite, ovvero 112 paesi, le agenzie specializzate dell'ONU e altre organizzazioni internazionali. In linea con la volontà di proseguire nella cooperazione tra Stati in tema di tutela ambientale, al termine della conferenza viene approvata una dichiarazione di principi. Tuttavia, la dichiarazione presenta una visione antropocentrica, che considera, cioè, la tutela dell'ambiente in quanto luogo in cui il genere umano vive, non come fine di per sé. Dal testo emerge che l'uomo ha un diritto fondamentale alla libertà e all'eguaglianza, cui corrisponde la responsabilità a preservare sia per le generazioni presenti che future questo ambiente suo proprietario. Manca invece un riconoscimento dei diritti all'esistenza e alla libertà di tutte le altre forme di vita e dopo mezzo secolo purtroppo siamo ancora allo stesso punto. Le istituzioni non hanno saputo aggiornare l'architettura antropocentrica del diritto. Timidi tentativi sono stati fatti con l'aggiornamento della nostra Costituzione o con le nuove disposizioni della legislazione britannica che riconoscono gli animali come esseri senzienti. Ma si tratta di norme azzoppate da numerose eccezioni, al punto da rendere i principi guida poco più di un orpello. A livello internazionale non abbiamo nemmeno questi tentativi e la pandemia ha rinforzato la visione di un mondo ad uso, beneficio e cura dell'umano. Il rapporto Diritti Umani, Ambiente e Covid-19, pubblicato dal Programma Ambientale dell'ONU e dall'Alto Commissariato per i Diritti Umani nel 2020, sembra scritto proprio nel 1972, quando recita: «La pandemia è un potente esempio dell'interconnessione di ecosistemi sani e diritti umani alla vita, alla salute, al cibo, all'acqua, a uno standard di vita adeguato e a un ambiente sicuro, pulito, sano e sostenibile». In parole povere, l'ambiente sano mantiene l'uomo sano, quindi continuiamo a sfruttarne le risorse e gli altri abitanti, ma con moderazione. Come vedete, da un lato quindi restiamo ancorati a una legislazione completamente schiacciata sulla gestione dello spazio fisico in funzione delle esigenze di una sola specie, la nostra. Dall'altro, quando proviamo a smarcarcene, cadiamo in una normazione iconica, fatta di solenni enunciazioni e di valori cui si mettono i panni della legge, senza però concretizzarli mai. La sfida dei prossimi 50 anni è dare corpo e concretezza a queste timide fughe in avanti, che in alcuni casi vengono tentate per pudore istituzionale o per l'opportunità politica di non mostrare il più totale disinteresse verso la crisi ecologica. Il ruolo delle attiviste e degli attivisti sarà quindi quello di superare la trappola della normazione iconica, spingendo i decisori a portare alle estreme conseguenze le prospettive etiche contenute nelle nuove disposizioni. Parliamo di tartarughe marine, con due diverse notizie che arrivano da luoghi assai distanti fra loro. Alle isole Seychelles, meta tradizionale di un turismo antiecologico, se pensiamo all'impatto di trasferimenti aerei e alle infrastrutture locali, è partito un censimento delle tartarughe giganti, una specie messa a rischio proprio dagli eccessivi traffici e appunto dall'impatto del turismo. Il paradosso è che il censimento è frutto dell'iniziativa di una struttura privata che gestisce un resort di lusso nell'isola di Frigate. Il censimento dovrebbe permettere di conoscere gli spostamenti delle tartarughe e quindi orientare le iniziative di protezione. Ma la limitazione del turismo sarebbe forse il primo provvedimento da prendere per dare una possibilità di salvezza a questi animali. Sono fatalmente a rischio le tartarughe marine anche nei nostri mari. Parliamo in questo caso delle caretta-caretta e delle loro nidificazioni lungo le nostre coste. Nidificazioni messe a repentaglio anche in questo caso dal turismo, visto che le uova vengono deposte sottoterra lungo le spiagge, a poca distanza dal mare, in luoghi spesso frequentati da moltitudini di bagnanti. Per proteggere le uova e consentire alle tartarughe neonate di raggiungere il mare, torna anche quest'anno la campagna Tarta Watchers di Legambiente. Sono già centinaia i volontari di Legambiente a presidio delle coste italiane e saranno impegnati per tutto il periodo estivo per individuare e proteggere i nidi. L'obiettivo di Tarta Watcher è seguire le tracce lasciate sugli arenili dalle mamme tartarughe per poi individuare i siti di deposizione delle uova da mettere in sicurezza e quindi proteggere sia le uova sia i neonati quando le uova si schiuderanno dalle incursioni di animali selvatici ma anche dai danneggiamenti involontari di bagnanti, turisti e addetti impegnati nella pulizia delle spiagge. Per contribuire come volontari o con segnalazioni alla campagna è possibile consultare il sito di Legambiente. Per questa settimana e anche per la prossima abbiamo concesso una pausa al nostro tosco vegan chef Gabriele Palloni, che può così godere di un meritato riposo. Ma visto che abbiamo parlato di mare e di oceani, vi riproponiamo una sua vecchia ricetta pensata per celebrare un paio di anni fa la giornata mondiale degli oceani. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. E per la giornata mondiale degli oceani non poteva mancare una ricetta a tema, ma senza crudeltà, perché si possono provare gusti freschi che ricordano il mare senza uccidere nessuno. Gli ingredienti per 4 persone per i ceci tonnati in vaso sono 400 g di ceci cotti, 60 ml di olio extravergine di oliva, 40 ml di latte di soia al naturale, un cucchiaio di succo di limone, mezzo cucchiaino di senape dolce, un pizzico di curcuma, un cipollotto fresco, il cuore di un sedano, mezzo spicchio di aglio, un cucchiaino di capperi, qualche rametto di aneto, la scorza di mezzo limone e una tazzina di aceto di mele. Tagliate il sedano e il cipollotto fresco a rondelle sottili e lasciateli marinare nell'aceto di mele. A parte, preparate una maionese vegetale emulsionando il latte di soia assieme all'olio con un frullatore ad immersione. Unite la senape, la curcuma ed il succo di limone e aggiustate di sale. In una bowl schiacciate un terzo dei ceci con l'aiuto di una forchetta. Unite gli altri ceci interi e condite con la maionese vegetale. Tritate l'aglio ed i capperi finemente, assieme alla scorza di limone e all'aneto, quindi unite ai ceci. Infine scolate il sedano e il cipollotto dall'aceto e unite al resto degli ingredienti. Riempite dei vasetti di vetro con l'insalata ottenuta e decorate con dei rametti di aneto e qualche cappero. Per questa settimana è tutto, vi saluta l'intera redazione di Restiamo Animali, composta da Camilla Lattanzi, Anna Granata, Francesca De Matteis, Roberta Marino, Valentina Reggioli, Valentina Baron, Francesco Panier, Gabriele Palloni, Gianluca Masala, Zenone Sovilla, Gianni Ferrarotti e chi vi parla, Lorenzo Guadagnucci. L'appuntamento è fra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.